trovare le proprie, uno spazio nell'inizio del secondo anno della crisi, facendo questa piccola lettura politica che ci portava a dire che in una società con sempre meno possibilità, con sempre meno diritti, quello di liberare uno spazio e provare a offrire servizi a costo gratuito o molto bassi, servizi che tendenzialmente vengono considerati accessori da questa società, che possono essere la pratica dello sport in maniera popolare e diffusa, e l'accesso a momenti di formazione, di cultura e aggregativi, fosse il modo per provare a intervenire nella situazione politica italiana. Questo spazio è sotto sgombero, nella Milano di Pisapia, e la scelta nostra come collettività è quella di volere difendere questa realtà, e per questo individuiamo, in mezzo alle ovvie responsabilità legate al capitalismo, diciamo, che è uno spazio sgombero e svuotato per più di 15 anni, possa essere richiesto per motivi legati a un prestito da parte delle banche, individuiamo una grossa responsabilità politica nei confronti dell'amministrazione comunale, che quando era in campagna elettorale aveva parlato delle pratiche autogestite, delle realtà occupate come importanti per la città di Milano, e da in questi 2 anni di giunta non ha speso parola pubblica, non ha fatto niente per cercare di trovare delle soluzioni politiche alle questioni legate alle autogestioni. Per questo abbiamo deciso di lanciare già pubblicamente un corteo l'11 maggio, un corteo sulla tematica degli spazi e in generale sulla città e la metropoli che vorremmo, perché lo sgombero di ZAN e il silenzio dell'amministrazione comunale si inserisce in un solco di questa giunta, che sta portando, invece che all'apertura di nuovi spazi e possibilità di aggregazione e messa e creazione di possibilità, alla chiusura di spazi. C'è la proposta dell'assessore alla sicurezza Granelli di settimana scorsa di chiudere in alcuni punti della città i locali a mezzanotte, di non poter vendere alcolici da sport e tutta una serie di cose. Quindi noi eravamo qua per raccontare la nostra situazione, rilanciare il corteo dell'11 e chiedere a tutti quelli che vogliono rimanere in contatto e firmare un appello che abbiamo scritto là c'è un foglio su quel tavolino col comunicato stampa e un foglio per raccogliere le firme dell'appello, a seguire le nostre evoluzioni su un sito che è milanoinmovimento.com, dove raccogliamo tutte le cose. Scusate se sono stato lungo e grazie a tutti. Grazie a te. Va bene, c'è qualcuno che deve salire. C'è Giobbe, dai, basta.